Arrivarono da tutto il paese, alcuni anche dall'estero, fiumi interminabili di corpi convenenti, come gobbe di cammello, riserve di alimenti e di identità mutanti. Tanto che uno scienziato disse, nel prossimo millennio, i corpi nasceranno già muniti di zainetto sulla schiena, con un diario, un impermeabile, qualcosa per la scena, e tutti i documenti necessari per arrivare al luogo del concerto, e gli elicotteri nel cielo filmavano correnti colorate per le famiglie a casa, che erano senza dubbio molto preoccupate di non sapere niente di quei figli così diversi da come erano loro, ma con la stessa voglia di unirsi a un con con con con con con. In quella fase prima del lavoro, flessibile saltuario interinale, telefonico mancante il manuale, una nuova categoria professionale appare all'orizzonte, osservatore di cieli stellati. In cerca di satelliti avariati e di nuovi allineamenti di pianeti, che sveleranno a noi nuovi segreti su come ottenere banane resistenti alle cadute dei governi e alla neve artificiale dei futuri inverni. L'universo è un ipertesto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. L'universo è un ipertesto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. Qualcuno entrò nella bottega sterile del vecchio tatuatore e chiese di potersi tatuare sul petto questa frase: fai not sound, fai not sound, fai not sound. Passava sulla bocca, cercando con la lingua il gran tesoro, nascosto dove nascono gli arcobaleni e dove gli esistenzialisti di ogni era riposano pensando all'infinito, cercando di tappare mille buchi con un solo dito. Qualcuno invece camminava solo, o perché era stato abbandonato, o perché diceva prima o poi qualcuno mi abbandonerà. Dicono che il prossimo anno il concerto non si farà più, al posto sul cartellone blu, che ognuno potrà guardare, immaginare ciò che vuol sentire, le luci, il suono, il palco, l'umidità dell'aria. L'universo è un pretesto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. L'universo è un pretesto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. Qualcuno entrò nella bottega sterile del vecchio tatuatore e chiese di potersi tatuare sul petto questa frase: fai not sound, fai not sound, fai not sound. Fai no sound, fai no sound, fai no sound.